La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato alla dominazione araba in Italia. Per ben 400 anni il nostro paese è stato musulmano. Ci racconta di questo passato dimenticato lo storico Amedeo Feniello, autore del volume Sotto il segno del leone, storia dell'Italia musulmana, edito dalla Terza. Ma ora la parola va a Dino Pesole. Per un lungo, lunghissimo periodo, ben 400 anni, l'Italia è stata musulmana. È una storia lontana che ci proietta molto indietro nel tempo, nel bel mezzo del Medioevo. Una storia che ha inizio con il lungo, sanguinosissimo assedio di Siracusa, che ha termine con la capitolazione della città il 21 maggio dell'878. È una storia di vinti, raccontata da alcuni storici stranieri, non dagli storici italiani. Una storia che acquista invece rilevanza e attualità proprio ora che la cosiddetta primavera araba, vale a dire la rivolta di interi paesi del Nord Africa, ripropone con forza il tema dei rapporti tra il mondo occidentale e lo sterminato universo dei paesi arabi e musulmani. Una storia che ora ci viene riproposta dal ricco e documentato libro di Amedeo Feniello, Sotto il segno del leone, storia dell'Italia musulmana, pubblicato dalla Terza. Dalla lettura del libro apprendiamo che dalla storia del nostro paese è quasi scomparsa, come se fosse stata rimossa, quest'Italia del Sud che per 400 anni, scrive Feniello, parla arabo e musulmana ed è composta da generazioni di uomini e donne che hanno combattuto, vinto, prodotto, costruito, pregato lo stesso Dio da orizzonti diversi, con circuiti spesso originali di pratica politica, amministrativa, sociale ed economica. Amedeo Feniello è coordinatore della Scuola Storica Nazionale di Studi Medievali annessa all'Istituto Storico Italiano per il Medioevo. Buonasera, dottor Feniello, e benvenuto. Buonasera a voi. Prima di tutti una domanda. Lei è un medievista, ma da dove nasce questo suo interesse per un periodo così poco conosciuto e trattato dagli storici italiani? Esiste un aspetto che considero centrale quando si scrive di storia, che è il sentimento d'umanità, che spesso si dimentica o si tralascia. E nel raccogliere gli elementi di questa storia sui musulmani, ciò che mi ha colpito sin dall'inizio è il senso di un'umanità negata, sia che si considerano questi quasi 500 anni dal punto di vista cristiano, sia dal punto di vista musulmano. C'è una negazione poi da parte della nostra storiografia italiana che in qualche misura ha creato un vero e proprio oblio culturale nei confronti di questa storia, con una volgata che ha teso a dimenticare questa memoria. Ma la lunga vicenda della dominazione musulmana nel nostro paese, lo ricordavamo poc'anzi, ha inizio con l'assedio di Siracusa, la capitale bizantina di Sicilia, una delle perle della Sicilia. A raccontare quel che avvenne è un testimone diretto di quegli eventi, il monaco Teodosio, che scrive dalla prigione di Palermo all'arcidiacono Leone. Mentre fuori impazzava la spada, dentro la città il terrore spargeva largamente la morte e sembrava quasi che quell'antico vaticinio di Mosè dovesse applicarsi. Finite le erbe selvatiche e le più sordide cose, che per la fame pure dovemmo ingoiare, fummo spinti sino a divorare la carne dei bambini, nefanda cosa e da tacersi. Mentre prima non si era trascurato di mangiare la carne dei morti e degli uccisi. Alla fame tenne dietro la pestilenza, il tetano. Per 20 notti e 20 giorni, senza posa, strenuamente combattevano contro i nemici che tentavano di penetrare dentro la breccia apertasi nelle mura della città. Alla fine, spalancate con grande impeto le porte, i nemici vi entrarono con le spade sguainate, spirando fuoco dalle narici e dagli occhi. In un solo istante, ogni età fu passata a fil di spada. Sembrava giunto quel giorno di cui parla Sofonia, giorno di calamità e di miserie, giorno di pianto e di morte, di tenebre e di caligine. وخليت vegni a tua basciarie ti falle فالاخفي والشجوى السبابتي والجوى ووجد الفوادي إن هي إلا ظلال النور. Un assedio, dottor Feniello, sanguinosissimo. Dunque parte con una strage la dominazione musulmana in Italia. Intanto, quali furono i motivi di tanta atrocità che ricorda in tempi più vicini a noi anche drammatici assedi come quello di Leningrado da parte dei nazisti nell'autunno-inverno del 1941? Siracusa cade, Leningrado fortunatamente per noi no. Ma anche le analogie sono tante, proprio per quel senso di umanità a cui accennavo prima, lo strazio, le malattie, i morti, la fame, il cannibalismo e la paura sono degli ingredienti comuni di questo assedio, come di tanti altri che in qualche misura sono il filo conduttore di tutta questa vicenda, sia da una parte che dall'altra. Ora parliamo di questi lunghi 400 anni di dominazione musulmana di cui per la verità non si sa moltissimo. Quali furono i tratti principali di questa dominazione? Se noi andiamo in Sicilia cogliamo un po' dappertutto tracce della cultura araba. Beh, io invece credo che la rimozione sia stata quasi totale. Soltanto in questi ultimi decenni l'archeologia è riuscita a trarre fuori qualche traccia da questa terribile patina di vernice che a partire dalla dominazione normanna hanno caratterizzato l'oblio della memoria della presenza musulmana in Italia. Se devo mettere in luce un aspetto rispetto a tutti quanti gli altri, mi piace ricordare l'aspetto economico, cioè bisogna pensare che fra decimo e undicesimo secolo, proprio nel momento in cui nel resto dell'Europa si vive ancora un'economia naturale di baratto, nel sud Italia, dove l'influenza musulmana è fortissima, esiste un'economia di mercato, esiste un'economia basata su monete d'oro che vengono da Palermo oppure dall'Africa e tutto questo ruota in un'economia mondo enorme che va dal Gange fino a Cordova e ha al suo centro un Mediterraneo musulmano. E l'Italia, il sud Italia, è parte di questo grande mercato con grandi fortune, come per esempio quella di Amalfi, che vive una stagione irripetibile della sua storia proprio a traino di questa grande coinè musulmana. Ecco, qui ho due questioni da sottoporle. La prima è oblio, ma perché mai c'è stato l'oblio? Forse perché si è trattato di una storia di vinti? E poi quando ebbe fine effettivamente la dominazione musulmana? È un oblio perché è una storia di vinti. Appena comincia la dominazione normanna nell'undicesimo secolo, tutta quella tolleranza che viene supposta spesso nei manuali non ci fu. Ci fu anzi un atteggiamento di intolleranza religiosa con una serie di pogrom molto molto violenti che poi alla fine sfociarono, e questo per l'elemento conclusivo della vicenda, con le grandi guerre sterminatrici, il termine è utilizzato dal notaio dell'epoca, voluto da Federico II, che comportarono la distruzione della colonia musulmana presente ancora in Sicilia. E una terribile operazione di pulizia etnica che spazzò via in circa 30 anni tutti i musulmani presenti e che tra morti, deportazioni e fughe ridusse di circa la metà la popolazione presente nell'isola nel XIV secolo. E che cosa insegna questa storia oggi, soprattutto a noi, dopo il manifestarsi, dopo lunghi decenni di silenzio, di una serie di rivolte nei paesi arabi? Pensiamo all'Egitto, all'Algeria, alla Tunisia, alla Libia, alla Siria, che hanno fatto ritenere a molti che si sia di fronte a un passaggio storico, dagli esiti per la verità alquanto incerti, poiché in quei paesi la democrazia è tutta da inventare. Guardi, la storia dei musulmani in Italia non è una storia di tolleranze, anzi paradossalmente questa storia va letta proprio perché di scontri di civiltà così violenti non ne accadono più. È una storia all'insegna del jihad, della guerra santa, con una violentissima temperie e di combattimenti da un lato all'altro dello schieramento, cristiano o musulmano che fosse. Tuttavia all'interno di questa storia vi sono degli esempi luminosissimi di grande umanità. Il più bello riguarda un giureconsulto, che è l'imam al-Mazari, che vive sulle sponde africane ed è figlio di profughi musulmani scappati dalla Sicilia. Un uomo di cultura e di scienza che organizza con la sua comunità un gruppo di accoglienza dei profughi, di questi boat people che arrivano dalla Sicilia, che scappano dalla madrepatria, e forma una rete islamica di volontari per dare conforto ai rifugiati, ai deboli, alle famiglie in fuga. Cioè un esempio bellissimo per allora e soprattutto per oggi. Eppure il messaggio oggi sembrerebbe proprio essere il contrario di questo lungo periodo di intolleranza, vale a dire non c'è altra strada che il dialogo con fette così importanti e rilevanti, appunto anche a livello politico, cioè è impossibile immaginare un futuro per il mondo se non attraverso un dialogo tra il mondo occidentale e il mondo musulmano. Ma assolutamente, lo scontro di civiltà è quanto di più essenziale possibile. L'elemento di confronto che può esistere all'interno di questi mondi così diversi ma così simili nelle loro caratteristiche può essere soltanto il dialogo, è l'unico elemento che in questo Mediterraneo così travagliato come quello che stiamo vivendo in questi giorni può portare veramente a una soluzione dei vari problemi che ci sono. Grazie dottor Feniello, lo ricordiamo autore appunto sotto il segno del leone, Storia dell'Italia musulmana, pubblicato dalla Terza. Grazie ancora. Arrivederci, grazie.